Dopo l'edizione bolognese dell'autunno scorso con Wuming, Nicoletta Bourbaki, Jacobin Italia e tanti altri, contrattacco il Festival di Letteratura Sociale sbarca a Milano, in particolare dal 21 al 23 di giugno a Remake. Noi siamo al telefono con Zoe Roncalli per parlare appunto di questa nuova edizione di Contrattacco. Buongiorno. Buongiorno. Allora Zoe, la prima cosa che ti chiedo è di raccontare ai nostri ascoltatrici e ai nostri ascoltatori il luogo dove si svolge appunto Contrattacco. Allora, Remake è uno spazio recuperato che si trova a Bruzzano, un quartiere assolutamente popolare di Milano e in particolare all'interno dell'ex liceo Omero, che era un liceo classico chiuso a causa delle sempre minori iscrizioni da parte delle studentesse e degli studenti. Noi abbiamo recuperato appunto questo spazio e al suo interno facciamo parecchie attività, soprattutto attività che hanno a che vedere con il mutualismo, quindi con la creazione di delle risposte concrete ai bisogni delle persone che attraversano lo spazio. Abbiamo deciso di fare Contrattacco all'interno di Remake perché per noi è centrale il fatto di restituire, anche perché l'occupazione è all'interno di un ex liceo classico, tutto un ambito di cultura popolare dal basso in un quartiere che è sempre più abbandonato e sempre più marginalizzato nella città. In soli 3 giorni c'è un programma veramente veramente ricco, e allora, visto che parlavi di questo ex liceo, vedo che ci sono approfondimenti anche sul tema della scuola. Assolutamente sì, abbiamo deciso di appunto di recuperare questo tema proprio per il luogo e per porre che cosa vuol dire per noi la scuola e che tipo di istruzione pensiamo che sia necessaria per poter affrontare questo mondo. Durante la presentazione si discuterà di come la scuola sia un luogo di classe, ovvero di come le possibilità siano differenti in base all'appartenenza sociale di chi vi partecipa e a dove è collocata la scuola, ma parleremo anche di quali sono le risposte che possiamo trovare insieme per rendere la scuola un luogo più accessibile possibile. Perciò sarà presente il progetto Scuola Fuori Mercato, che ha proprio come scopo quello di dare sostegno a chi studia, alle studentesse e agli studenti con delle difficoltà nell'apprendimento e di ragionare un modo diverso di insegnare. Sarà presente la scuola di italiano, di Remake, che ha proprio anche lì come obiettivo quello di aiutare nell'apprendimento dell'italiano e dare una prima preparazione, imparando però anche a riflettere e a discutere nella lingua e a rivendicare i propri diritti nella conoscenza della lingua. Poi tra gli altri temi, insomma, vedo che ci sono sostanzialmente un po' tutti i temi dell'attualità di quest'epoca, no? Dalla questione ambientale al neofascismo, dalla precarietà al femminismo. Cosa ti senti di segnalarci? Ma allora, è molto difficile scegliere, nel senso che noi abbiamo costruito il programma pensando proprio a come rendere tutto il più interessante possibile. Quindi io in realtà segnalerei tutti e 3 i giorni. Forse in particolare, ma perché è quello che seguo di più da un punto di vista personale, sento di segnalare tutto il lavoro che c'è su femminismo e mutualismo, ovvero il rapporto che si può instaurare nel lavoro di cura per renderlo il più socializzato possibile, per costruire insieme appunto tutta la riproduzione sociale. Però è veramente difficile, lo dico giusto perché è ciò che seguo con più attenzione. A proposito di clima, è un tema che qua, appunto, da Greta Thunberg in avanti, ovviamente è molto balzato all'onore delle cronache, però spesso non si sottolinea il fatto che l'emergenza climatica è anche frutto di un sistema produttivo, e voi invece questo lo mettete in relazione. Assolutamente sì, lo mettiamo in relazione in primo luogo perché all'interno di Remake e della rete di Fuori Mercato di cui facciamo parte c'è una fortissima analisi su questo tema da molto tempo, anche da prima appunto degli ultimi movimenti arrivati, e quindi è qualcosa su cui, come dire, eravamo già preparati, che ci permette di affrontarlo con una certa consapevolezza. Ecco, e ci teniamo a sottolineare questo tema sia perché appunto se non si modifica la modalità, diciamo, di produzione, se non si modifica il sistema economico, è impossibile pensare un mondo veramente sostenibile, e questo verrà poi mostrato molto bene all'interno della tavola rotonda in cui si discuterà a partire dall'impossibile capitalismo verde di Ben Said, e allo stesso tempo perché noi teniamo molto a sottolineare come l'ecologia e la lotta per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori debbano sempre andare insieme, perché se questo non accade, ciò che succede è che magari c'è un'agricoltura biologica ma fatta sullo sfruttamento delle persone, in particolare dei migranti e delle migranti. Poi si parlerà appunto di working class con Alberto Prunetti, poi ci sarà Marta Fana, ci saranno Francesca Coin, insomma tanti nomi che anche da queste frequenze conosciamo. Vedo che c'è anche, come dire, una parte più, chiamiamola ludica, insomma spettacoli e musica. Sì, questo l'abbiamo fatto perché per noi è sempre, come dire, importantissimo unire una parte più di formazione, di autoformazione, a una parte che può sembrare in parte meno formativa, ma che invece per noi è centrale, perché nell'imparare a divertirci insieme o ad esempio a guardare degli spettacoli di un tipo diverso, a guardare delle esibizioni di un tipo diverso, da quelle delle drag queen del collettivo Prisma di Pavia, allo spettacolo delle Pupazzare, insomma a tutti quanti gli spettacoli che vediamo durante la 3 giorni. Per noi è centrale il fatto di imparare appunto un divertimento di un tipo diverso e imparare a stare in relazione anche nelle relazioni più amicali in un modo differente. Purtroppo non riusciamo veramente a restituire la ricchezza di questo programma, per cui ti chiedo, cioè, di dare, come dire, una dritta a chi ci ascolta su come fare a trovare il programma completo. Potete guardare su Facebook, sulla pagina Facebook di Remake, all'interno della quale trovate l'evento di contrattacco, ma che in realtà è coorganizzato da moltissime realtà e associazioni, quali l'Antro della Femminista, la Rete Nazionale Fuori Mercato, Giacobin Italia e ovviamente Alegre, che è la casa editrice che dà la Natale, diciamo, questo festival, e anche pagine come IVG Ho Abortito e Sto Benissimo. Insomma, è un'organizzazione molto plurale. Per le coordinate, se guardate su Facebook, appunto, trovate tutto. Certo, allora io ricordo l'appuntamento 21, 22, 23 giugno a Remake in via del Volga 4 a Milano. Grazie mille per questa così anticipazione. Grazie a te.